1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari amici, vi ricordo che la 148esima settimana decisiva per abolire le province è in pieno corso, eh? È in pieno corso, dai che forse ce la facciamo prima della 150esima, chi lo sa? Ottimismo, ottimismo Goofy, ottimismo. Allora, siamo qui a leggere i giornali, operazione che andiamo subito a fare. Vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8.40 Simone Moro, il grande amico di Radio 24, il grande alpinista che ha fatto un nuovo straordinario record, unico uomo ad aver scalato 4-8.000 in inverno sul Nanga Parbat. Simone Moro parlerà, insomma è la prima volta che lo sentiamo in esclusiva dal Pakistan dopo aver completato quasi la discesa dal Nanga Parbat. State con noi allora, eh. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 2 marzo i titoli: il Sole 24 Ore apre sul PIL 2015 cresce dello 0,8%, lavoro 70.000 posti in più, sono le stime dell'Istat. Così il Corriere della Sera: torna la crescita dopo 3 anni, e anche Repubblica: torna la crescita, 70.000 posti in più, l'export spinge il PIL. La Stampa: Renzi, l'offensiva dei numeri su PIL e posti di lavoro. Questo è il titolo di prima pagina, così come il Messaggero: PIL e lavoro, segni di ripresa. Mentre anche il Giorno è: più lavoro, l'Italia cresce. Così l'Unità: bentornata Italia. Mentre, dicevamo, ci sono comunque in questo panorama positivo anche titoli negativi come Libero: così taglieranno gli sgravi fiscali, Renzi alzerà le tasse per abbassarle. Invece il Giornale: sulla Francia, ecco le ruspe democratiche. Effettivamente è una cosa che mi ha colpito. A Calais stanno abbattendo, come abbiamo detto, la cosiddetta giungla, no? Dove stanno i profughi da un anno. Abbattuta la baraccopoli, ci sono le foto delle ruspe, però non ho visto grandi mobilitazioni. Ecco le ruspe democratiche. Hollande fa abbattere una maxi baraccopoli, nessuno si indigna. Questa è la prima pagina del Giornale. Va bene, vedremo altre aperture, intanto voglio partire subito con le notizie. Ah, oh, la prima è quella che riguarda il tema annoso, mondiale se volete, della tutela della privacy, che ha messo in confronto per esempio Apple e FBI sulla questione della Apple che non ha voluto dare i dati del telefonino di un attentatore, l'ultimo in California. La vicenda è a livello mondiale, ha suscitato anche un dibattito sulla tutela della privacy da una parte, sul diritto da parte delle forze dell'ordine di cercare in nome della sicurezza di accedere anche ai dati. Ebbene, sapete cosa è successo per una vicenda paragonabile in Brasile? Le autorità, la polizia ha arrestato il vice presidente di Facebook per l'America Latina perché ha negato l'accesso ai dati in un'operazione di narcotraffico. Gli spacciatori utilizzavano WhatsApp per comunicare. Nega l'accesso ai dati, arrestato in Brasile il vice capo di Facebook. Capite come l'hanno risolta in Brasile? Tutti i giornali dedicano almeno una pagina a questo tema. Lo leggo da Repubblica, per esempio, Alberto Flores d'Arcais: Facebook arrestato un top manager. Un giudice a Brooklyn, le audizioni al congresso, un arresto in Brasile nel giorno in cui l'America ha occhi solo per il Super Tuesday, la controversa vicenda. Apple FBI fa segnare un primo round a favore dell'azienda di Cupertino, ma allarga il contenzioso al Sud America e coinvolge anche Facebook e WhatsApp. Mentre il direttore dell'FBI e il capo dell'ufficio legale Apple si stavano preparando a esporre le loro ragioni, dal Brasile arrivava la clamorosa notizia destinata a aumentare la tensione tra le aziende della Silicon Valley e le forze dell'ordine di diversi paesi. La polizia ha arrestato il vicepresidente di Facebook per l'America Latina, Diego Jorge Zodan. Il motivo? La società di Zuckerberg si è rifiutata di dare alla magistratura l'accesso a dati di WhatsApp, ritenuti rilevanti per un'inchiesta sul traffico di stupefacenti. Dunque, ecco che in Brasile hanno reagito così, ovviamente con un arresto shock, se volete. Non consegnerò dati alla polizia, Brasile ha arrestato il vice di Facebook. Questo è così il titolo del giorno, ma anche Libero, Il Manifesto, tutti dedicano una pagina a questa tematica. Veniamo a cose più italiane. Vi segnalo un'intervista che Piero Colaprico fa a quella manager Giovanna Ceribelli, che è diventata nota perché ha fatto in pratica scoperchiare tutto l'ultimo scandalo sulla sanità in Lombardia. Giovanna Ceribelli è un revisore dei conti, ha dato il via all'inchiesta nelle gare truccate della sanità lombarda. È intervistata da Piero Colaprico su Repubblica, pagina 17, racconta: noi revisori dei bilanci degli ospedali abbiamo un potere immenso. Io posso dire a chiunque: aprimi il cassetto e fammi vedere cosa c'è. E se qualcosa non va, ho l'obbligo di segnalarlo alla Corte dei Conti. E allora chiede Colaprico: perché, a parte il suo lavoro o di pochi altri, questo potere e dovere di controllo latita? Per paura. Famiglia io non ne ho e non sono comprabile. E perché si è data da fare? La materia degli appalti, anche degli appalti ospedalieri, è difficile, bisogna entrarci dentro, ma si capisce subito che questo settore sta ammazzando il nostro paese. I soldi pubblici escono dalle casse statali attraverso appalti condizionati, truccati, non corretti. Io lo chiamo il dramma degli appalti. E poi racconta di questa vicenda. Tutto nasce da un ospedale, il Bolognini di Seriate. Abbiamo scoperto, noi revisori, dico, che era truccata la gara degli appalti degli ascensori. L'abbiamo segnalata. Qualcuno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi. Abbiamo segnalato anche che il direttore generale usava l'auto di servizio per le sue vacanze in Croazia. Quelle vacanze erano irregolari. La procura di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato di Amedeo Amadeo, tra l'altro ex europarlamentare di Alleanza Nazionale. Il mio stipendio, poco più di 18.000 euro lordi, me lo sono però guadagnato con la questione delle macchinette del caffè. E cioè, un'azienda aveva piazzato nell'ospedale 65 macchinette senza dare in cambio un euro. La spiegazione? Stampavano un giornale una volta l'anno. Assurdo, quantomeno. Ho detto non va bene. E così, per rinnovare l'appalto per 3 anni, questa ditta ha pagato 550.000 euro. Sa dove sono i miei colleghi revisori di Seriate? Nessuno lavora più con il pubblico. È così che gira il mondo della sanità e non solo. Insomma, racconta da una parte in questa intervista a Repubblica come si deve entrare in questi appalti e smascherare, e il titolo è questo: cacciatrice di appalti, così ho smascherato la zarina delle dentiere. E racconta anche di una vita però di appalti, che definisce lei stessa il dramma degli appalti in Italia, e come entrandoci dentro bisogna cercare di scoperchiare questo mondo. A proposito di scoperchiare questo mondo, poveri onorevoli, amici deputati, dramma alla Camera. C'è un dramma raccontato da Repubblica e da Libero. C'è il dramma della buvette, cioè il bar, la buvette, il bar della Camera, dove ora è stata emanata una circolare dalla Camera. Bisogna fare come tutti gli italiani. E questo, poveri deputati, trattati come italiani qualunque, dovranno prima fare lo scontrino e poi consumare. Perché era abbastanza diffusa l'arte dello scrocco, no? Narra Salvatore Dama sul Libero di quel politico che mangiò 8 supplì e poi disse: ne ho preso uno. O di quello che prese 26 panini, poi, andando allo scontrino, uno ne ho preso. E allora, per contrastare questo vezzo alla Camera, ecco che la Camera stessa ha fatto una direttiva: bisogna prima fare lo scontrino e poi consumare. Poveri onorevoli, onorevoli! Ora paghi, guerra dello scontrino al bar di Montecitorio. Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 13, racconta dell'ex ministro Lupi che si avvicina. Un caffè, grazie. Veramente, presidente, mi scusi, dovrebbe far prima lo scontrino. Lo scontrino? Ma siete impazziti? Ma io consumo e poi pago, come in tutti i bar del mondo. Così si arrabbia Lupi, che poi nel pomeriggio torna, racconta Tommaso Ciriaco, chiede un tè alle 5 e dice: «Oh, non ho fatto lo scontrino, ne parlerò con i questori». E che facciamo quando c'è confusione? Una fila alla cassa chilometrica? Poveri onorevoli, devono fare la fila al bar come tutti gli italiani quando capita e devono fare lo scontrino prima di consumare. Ma questo è stato stabilito alla Camera, lo racconta Repubblica, lo racconta anche Libero per l'appunto. Basta tramezzini a sbafo, la Camera blinda il bar, i controllori. D'altronde, prima, racconta Libero, più che un bar, cioè un esercizio commerciale dove si pagava e si dava una prestazione, sembrava così un self-service. Entri, prendi 8 panini, dici ne ho presi 2 nella confusione. Non è che c'era nessuno che andava dall'onorevole presidente, ministro, a dire: mi scusi, ha preso un tramezzino in più. Sapete com'è, insomma, sono i più onesti dell'Italia e quindi mica vai a pensare che rubino un tramezzino, no? Allora, va bene, questo succede alla Camera, mentre io devo fare una premessa riguardo all'articolo da Mani sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. La premessa è: se vi ricordate quando abbiamo invitato Antonino Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, che ha detto: io ho pignorato gli stipendi ai deputati siciliani, ne ho trovati tantissimi che erano in arretrato con le tasse, per primo da quando sono arrivato ho recuperato molto dell'evasione, per primo ho chiesto il pignoramento degli stipendi ai deputati siciliani perché non pagavano arretrati. Poi io l'ho intervistato per il quotidiano Libero e mi ha detto: guardi Alessandro Milan, guardi che stanno brigando per mandarmi via, la politica lo farà presto. Io gli ho detto: ma come fanno? Ma vedrà che succederà presto. Sergio Rizzo, pagina 26 del Corriere della Sera. Antonino Fiumefreddo: lunedì, due consiglieri di Riscossione Sicilia si sono improvvisamente dimessi. E così decade il consiglio e Antonino Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, decade. È un fatto che l'Assemblea regionale aveva negato negli ultimi mesi a questa società i soldi necessari a tenerla in vita. È un fatto che Fiumefreddo aveva cominciato a tagliare le spese eliminando la lista degli avvocati esterni 887 e avviando alcune azioni impopolari come il sequestro di Porsche e Ferrari agli evasori. È un fatto che ha iniziato a spedire le cartelle di pagamento a 2/3 dei componenti dell'Assemblea regionale. È un fatto che l'hanno fatto decadere. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan è il furbacion dell'informazione. E a lei, cari ascoltatori. Sono le 7:35 minuti, siamo sempre in diretta a leggere i giornali. Allora, ci sono alcuni dati sull'economia che hanno fatto gongolare il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha detto le chiacchiere dei gufi stanno a zero. Ha fatto anche un lungo post su Facebook a criticare i criticoni e a dare contro i rosiconi. Allora, quali sono questi dati? Beh, uno lo trovate come titolo di prima pagina su tutti i giornali. Nel 2015 la crescita del PIL più 0,8% rispetto allo più 0,7% che era stato stimato. E dunque, le stime preliminari dell'Istat erano quelle, invece nel 2015 il PIL è cresciuto dello 0,8%. Stiamo parlando di un punto decimale rispetto alle stime, però tutto ciò fa brodo, sicuramente. Come racconta Davide Colombo a pagina 2 del Sole 24 Ore, l'economia italiana è uscita nel 2015 dagli ultimi 3 anni di recessione, cioè il 2012-2014. la crescita in volume del PIL dello 0,8%, a spingere sul prodotto interno, che rimane in volume a livelli ancora inferiori a quelli del 2000, è stata la domanda interna, più 0,5%, mentre la domanda estera netta ha pesato negativamente per 3 decimali. Il dato finale sul PIL diffuso dall'Istat è inferiore di un decimale rispetto alle ultime previsioni del governo e superiore sempre dello 0,1% rispetto alle stime DEF di aprile, che davano un aumento invece dello 0,7%. Per carità, poi uno va a vedere che nel Regno Unito è un più 2,2%, in Germania più 1,7%, in Francia più 1,2%. E vabbè, noi accontentiamoci dello 0,8, anzi facciamolo passare come un grande trionfo, va bene tutto, va bene tutto. Ma insieme a questo dato, ce n'è un altro. L'Istat dice che a gennaio ci sono 70.000 occupati in più, posti fissi in crescita di 99.000 unità, in calo i dipendenti a termine, invece meno 28.000. Renzi dice sono gli effetti del Jobs Act impressionanti. Questo l'aggettivo usato dal Presidente del Consiglio. Insomma, il 2016, come racconta Giorgio Pogliotti, e sono a pagina 3 del Sole 24 Ore, si apre con un balzo in avanti degli occupati. A gennaio 70.000 persone al lavoro in più rispetto a dicembre 2015. Frutto di una crescita di 99.000 dipendenti con contratto permanente e invece una contrazione di 28.000 occupati a termine e 1.000 autonomi. Quindi questo è il dato. Ci mettiamo insieme anche che ieri Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha presentato i risultati 2015 dicendo che ci sono 15 miliardi recuperati dagli evasori e annunciando che da luglio ci sarà il via alle fatture digitali anche tra privati. Ecco allora che Renzi appunto esulta. Chiacchiere dei gufi a zero. Poi annuncia taglieremo ancora le tasse. Il Jobs Act è impressionante. Anche il Messaggero con Alberto Gentili racconta: numeri dimostrano che questo governo, con questo governo le tasse vanno giù, gli occupati vanno su, le chiacchiere dei gufi stanno invece a zero. E vabbè, il trionfo, diciamo, nel racconto renziano, ma sbatte un po' il muso con questo articolo che riguarda la vita di tutti i giorni. Cioè, perché allora, se la ripresa, per carità, tutti i problemi non sono risolti, ma se la ripresa arriva, perché allora ci sono ancora, come racconta Repubblica con Massimo Pisa a pagina 5, 4.800 persone che si presentano a un palazzetto per un posto da collaboratore all'ASL, collaboratore sanitario all'ASL di Verona? Eccolo qua, un posto solo per 4.800 candidati. Il popolo dei concorsi si mette in fila. Un'unità sanitaria di Verona affitta un palazzetto dello sport e sborsa 8.000 euro per la gara, ma l'introito delle iscrizioni copre 3 volte il costo dell'iniziativa. L'obiettivo è un contratto a tempo indeterminato come infermiere alla ASL 20 di Verona, e racconta Massimo Pisa in questa pagina come i candidati aprano le buste. In realtà hanno presentato in 4.800 la domanda, alcuni sono stati scremati perché non avevano i requisiti, alcuni non si sono presentati, insomma alla fine sono circa 3.000 e rotti quelli che si sono presentati al palazzetto per un posto da infermiere. Va bene, La Stampa con Fabio Martini racconta che unioni civili, comuni, referendum, il premier vuol vincere il triplete, mannaggia, cioè, usiamo sempre questa simbologia calcistica che non tutti capiscono e molti non accettano. Comunque Fabio Martini racconta che Renzi cerca di sfruttare questo momento mettendo insieme anche le unioni civili, di cui si dibatte ancora tantissimo, cari ascoltatori, tantissimo, l'utero in affitto o comunque la vicenda Vendola è sullo sfondo, con contrari e favorevoli. Alfano propone una legge che dall'Italia vieti universalmente la pratica dell'utero in affitto. Ma come si fa? Cioè, come fai proprio tecnicamente a fare una legge italiana o comunque, non so, farsi promotore di una moratoria mondiale? Boh, non lo so, non ci riusciamo con la pena di morte, ma con l'utero in affitto sì. Comunque, la notizia del Tribunale di Roma che ha dato il sì alla stepchild di fatto, no? Per due donne, due lesbiche, entrambe mamme di una bimba biologica. E il Tribunale di Roma ha deciso che possono essere considerate mamme anche della bimba biologica della compagna, reciprocamente. Il sì di un tribunale a due donne reintroduce la stepchild. Vedete poi cosa succede? Che il Parlamento non legifera e i tribunali, applicando delle leggi, non è che si svegliano e decidono, applicando delle leggi che esistono, nello specifico l'abbiamo parlato anche in questa trasmissione, la legge 184 del 1983, quindi 1983 la legge già c'è, applicano e decidono caso per caso su ricorso, come a Roma la sentenza che segna un altro passo nella storia dell'adozione da parte di coppie omosessuali. Il Tribunale di Roma autorizza un'adozione incrociata di due bimbe a favore di due mamme, una coppia omosessuale che convive da 10 anni. Le due donne hanno partorito una figlia a testa, le bimbe hanno 8 e 4 anni, il loro concepimento grazie al seme di donatori in Danimarca. Quindi la politica si ferma, racconta Alessandra Arachi sul Corriere della Sera a pagina 10. La magistratura va avanti e la sentenza segue la stepchild adoption contenuta in una legge del 1983. Non è peraltro la prima volta. Avvenire tuona dalla prima pagina. Il titolo è questo: Stepchild, la sfida, tribunale dà l'adozione incrociata a due donne, Grillo e Alfano contro l'utero in affitto, il PD è diviso, guarda caso. Però, ripeto, la legge si ferma e invece la magistratura, le sentenze vanno avanti. Caro Mauro Meazza, c'è anche chi va avanti in Coppa Italia. Buongiorno, vabbè, adesso so. Ma magari anche voi io stasera farete una cinquina, sì, alla Juve. Ci chi sono lo sa, anche, chi lo ci sa. Sono anche cose che non vanno avanti. Adesso sì. Non vorrei che ci scrivessero tra i gufi o altri animali, ma vedo dal pagina 2 del Sole 24 Ore, dove quell'altro appunto segnaliamo questa crescita allo 0,8%, di cui già hai detto. Il bonus investimenti al sud in attesa della circolare. Ah, perché c'è un credito d'imposta per appunto gli investimenti nel sud, ma mancano le istruzioni. In realtà poi, leggendo il resoconto che ne fa Carmine Fottina, si capisce che mancano le istruzioni perché c'è un problema di coperture, cioè anche di soldini. Quindi, insomma, non tutto va avanti come dici tu. Voi per carità avete ieri magistralmente siete imposti su Alessandria, mi pare, o mi sbaglio, ecco, scusami, ero un po' distratto. Altre cose invece non vanno avanti, va bene. Comunque, le retribuzioni delle donne, ad esempio, leggo sempre sul Sole 24 Ore, continuano a restare più basse mediamente di quelle degli uomini, meno 10,9% in Italia, ma guarda, non siamo i peggiori neanche in Europa. Siamo con una classifica mondiale di cui riferiamo appunto nelle pagine di lavoro dentro imprese e territori, si apprende che siamo 41esimi su 145, insomma, non so, è una posizione da Europa League più o meno, potremmo dire. Ecco. Non ho trovato il tuo nome invece tra i 1810 miliardari del mondo, espressi in dollari, ma però. Ma li hai visti tutti? È per quello. Ma guarda, non li abbiamo proprio riportati tutti, però ne riferiamo ovviamente oggi nelle pagine di finanza ai mercati. Non so se tu magari sei appena sotto il miliardo e allora non figuri per quello. Però sappi che dovunque tu abbia messo i tuoi due eurini, sappilo, la Svizzera ieri ha dato la ratifica per lo scambio, per la trasparenza, diciamo, dei dati fiscali con l'Italia. Invece l'Italia sta un po' facendo fatica, sai che non basta aver siglato l'intesa, bisogna che poi i parlamenti ratifichino l'intesa. Certo, gli svizzeri stanno andando avanti velocemente, noi un po' meno, potremmo dire con una battuta banale che loro sono in orario. Noi, vabbè. Ti voglio anche dire che si approssima un altro problemuccio sulle dimissioni. Non so se hai colto che dal 12 di marzo diventano, bisogna farle online, cioè diciamo confermarle con un meccanismo tutto telematico. Ecco, se leggi oggi su Norme e Tributi, nelle pagine Norme e Tributi che tu sempre religiosamente devi consultare, vedrai che ci sono diverse questioni non risolte su questa vicenda delle dimissioni online, e quindi potrebbe essere... Ma perché sei così interessato? Ci devi comunicare qualcosa? No, te lo voglio dire perché magari, che so, tu potresti avere voglia di andare altrove, andare a trasferirti là dove hai posizionato i tuoi due urini, ad esempio, perché no? Io te lo auguro. Poi, visto che siamo partiti dalle unioni civili, allora con splendida circolarità ti voglio dire, oggi sulle pagine di Norme e Tributi troverai anche uno specchietto sugli effetti, ad esempio, legali e civili della norma, della legge Cirinnà cosiddetta, che ripetiamo non è ancora in vigore, manca il voto di un altro ramo, però come sarebbe ad esempio la separazione o la comunione dei beni in questo caso, una tabella e una serie di indicazioni appunto su come potrebbe cambiare il diritto di famiglia e gli effetti anche economici di questa, del diritto di famiglia nel caso di approvazione della legge così com'è. Tutto ciò premesso, molte altre cose ti vorrei dire, ma devo andare a prepararmi per l'impresa di questa sera e quindi ti devo salutare con il mio abituale saluto. Traffico! Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. Vabbè, questa è una delle migliori che abbiamo rispolverato su WhatsApp. Mandate le vostre sigle al 349-238-6666 in audio, mi raccomando, che così la qualità è fantastica. Allora, diamo uno sguardo all'Europa, dove si discute della questione dei profughi. Le immagini anche dello sfondamento delle barriere tra Macedonia e Grecia hanno colpito. Le immagini delle ruspe, segnatevi questa parola, poi ci torneremo, che abbattono la cosiddetta giungla a Calais in Francia. Anche questo hanno colpito. Di tutto questo parla il premier greco Alexis Tsipras, intervistato dal Corriere della Sera. Maria Serena Natale lo raggiunge, lo intervista. E dice Tsipras: noi greci saremo il volto umano dell'Europa, solidarietà o sarà la fine per l'Unione. In una crisi di dimensioni umanitarie, dice Tsipras, la Grecia, il popolo greco rivelano il volto umano dell'Europa. Lo fanno di fronte a un'Unione che chiude le frontiere, dove crescono la xenofobia, la retorica intollerante dell'estrema destra. Ricordate, Tsipras è un premier di sinistra. La Grecia è il territorio nel quale l'Europa confermerà i suoi principi e valori fondanti come l'umanesimo e la solidarietà, oppure li tradirà. Sono convinto che non possa esistere un'Europa unita senza il rispetto assoluto per le lotte e i valori comuni. E alla domanda di Tsipras e alle accuse di parte dell'Europa, di, come per esempio di Vienna, che vi rimprovera di mancanza di volontà per ridurre il flusso, risponde: noi non pretendiamo nulla più della solidarietà, principio fondamentale dell'Unione Europea. Esigiamo che sia condivisa dagli Stati la gestione di una crisi che è superiore alle nostre forze. Dobbiamo passare a un impegno vincolante di tutti e per tutti, orientato alla ripartizione obbligatoria nella responsabilità dei flussi in proporzione alle rispettive capacità. Così dice Tsipras riguardo appunto alla questione profughi. Attenzione, perché come segnala Repubblica, ora i trafficanti di rotte, i trafficanti di esseri umani hanno cominciato a mettere nel mirino l'Italia. Chiara Spagnolo, pagina 8 di Repubblica, allerta per la Puglia. Ora ai siriani i trafficanti vendono il cosiddetto pacchetto Italia. E si racconta in questo interessante articolo che nei profili Facebook degli organizzatori dei viaggi clandestini, perché ormai insomma, si organizzano e utilizzano anche i social, la parola Italia comincia a spuntare sempre più. Il piano B da vendere ai disperati bloccati in Grecia al prezzo di 2-3 mila euro è questo: abbandonate la rotta balcanica che vi porta nel centro Europa e ripiegate su quella adriatica che prevede viaggio in autobus fino all'Albania e in barco verso la Puglia. Attenzione, perché poi ci diranno, la politica ci dirà tra un mese: ah, è un'emergenza, non eravamo preparati. Invece tutto è messo nero su bianco. A proposito di ruspe, la parola che abbiamo messo lì, il giornale effettivamente fa una polemica in prima pagina che è abbastanza condivisibile. Ma com'è? Le ruspe di Hollande sono ruspe democratiche? Cioè le ruspe del francese che stanno abbattendo la baraccopoli di Calais dove vivevano 3.500 profughi, 3.500 è una piccola cittadina, in condizioni disumane, oggi lo racconta anche Marco Imarisio sul Corriere della Sera, tutti ora sono a Calais a raccontare cosa sta succedendo. Ebbene, il presidente francese chiude la baraccopoli, nessuno si indigna, se lo avessero fatto Sarkozy o la Le Pen sarebbe scoppiato un finimondo, scrive il giornale. E di fatto l'uso di queste ruspe insomma non suscita grande dibattito, sono ruspe appunto democratiche, si chiede il giornale. Mentre vi segnalo che ci sono ancora diversi articoli sulla vicenda di Giulio Regeni, come è giusto che sia e che venga tenuta alta questa morte, questa uccisione in Egitto che non deve passare davvero sotto silenzio. Le nuove rivelazioni attribuite al Dipartimento di Medicina Forense del Cairo, che poi dopo due ore ha smentito, questo per dire il caos che regna anche sulla morte di Giulio Regeni, dicono che sarebbe stato torturato più volte a più riprese per 7 giorni e poi ucciso da un colpo con un oggetto appuntito sulla parte posteriore della testa. Questo a dire che insomma è stata una vera e propria rapimento con tortura e con esecuzione finale, la vicenda di Giulio Regeni, della quale non si sa ancora quali siano i responsabili. A proposito di invece soldi, con cui ho iniziato questa rassegna stampa, ha molto colpito tra le interviste che ha rilasciato il maestro Morricone, che ha vinto l'Oscar, l'accusa alla RAI. La RAI mi ha offerto 10.000 euro per fare un'opera, insomma, per registrare. Ennio Morricone dice: io posso lavorare anche gratis, ha detto ieri al Corriere della Sera. Posso lavorare davvero gratis, ma gli orchestrali vanno pagati, hanno una dignità, servono almeno 30-40.000 euro. Quindi ho chiuso con la RAI. Ecco che oggi sia Pietrangelo Buttafuoco sul Fatto Quotidiano scrive in maniera polemica: per la RAI Morricone vale 10.000 euro. E così anche il giornale, la RAI perde l'Oscar, figuraccia con Morricone, 10.000 euro, non di più. Oh, maestro, 10.000 per tutti gli orchestrali, questo è. Ma attenzione, c'è la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Zen, ascolta, gattina mia. Elena Gagliardoni racconta che è nata la polizza per il micio. La polizza per il micio, 25 euro all'anno con massimale di 10.000 euro, protezione futura, la prima polizza assicurativa che garantisce le cure agli animali domestici in caso di nostro infortunio. Zen, gattina mia, miau, gliel'ho detto ma ha detto sempre miau, che vuol dire butta giù due crocchini e vai a lavorare e non rompere i maroni. Ma chi se ne frega!